Che c'è sta mia madre? No. Ciao, mi chiamo Andrea e qui mi ci ha mandato mia madre. Sì, perché dice che devo esprimermi, perché la gente è amica. Mamma Carla è sempre stata molto presente nella mia vita, fin da quando sono nato. Da bambino, mamma voleva insegnarmi ad essere preciso. Mamma Carla non sapeva giocare a tennis, ma avevo colorato male l'album dei Puffi. E in quel preciso momento mamma trovò dentro di sé il mal rovescio perfetto di Nadal. Dopo anni di partite a tennis, di dritti e di rovesci, di mal rovesci e di dritti, insomma dopo anni di botte, ho cominciato a balbettare, sì. Ma non come un balbuziente vero, no. Io le parole le stropicciavo, le intrecciavo, ma non ero un vero balbuziente. Che uno ti sente parlare, tutti incastri sulle sillabe, con gli occhi sbarrati al cielo, e chi ti sente dice: vabbè, sei impicciato, porello, è balbuziente. E tutto intorno si crea un'aura comprensiva e tenera, che se poco a poco qualcuno fa una battuta, si alza un coro dal pavimento e da muri: oh, allora, è un po' di rispetto, è balbuziente. Che poi, dopo Filippo Timi, è anche sexy essere balbuziente. E invece niente. Io non sono un vero balbuziente. E comunque poi sono migliorato molto perché ho cominciato a fare teatro. Sì. Ah, come non ricordare quando ho cominciato a calcare i primi palcoscenici del mio quartiere. E quanto mamma Carla fosse sempre presente. Una mamma che c'era. C'era la prima recita, c'era tutte le repliche, c'era tutte le prove. C'era così tanto che a un certo punto si era imparata pure a fare qualche appuntamento con le luci, i rudimenti di fonica, l'aiuto regia, insomma mamma Carla alla fine c'aveva pure le chiavi del teatro. E poi mamma Carla applaudiva molto per farmi sentire che c'era. Mamma più di tutti applaudiva quando io entravo in scena. Mamma applaudiva appena io entravo in scena. E solo una volta non applaudì, durante un mio monologo, la platea era piena. Dopo tre sillabe mamma si alzò in piedi e gridò: voce! Vabbè, cose di infanzia, d'adolescenza. Ora sono cresciuto, ho 42 anni, sono sposato, un buon lavoro, e oggi nell'età matura mia mamma ha una visione diversa di me. E come mia moglie, sì, una donna che mi conosce perfettamente, che mi ama. Sì, anche mamma mi ama a modo suo, ma entrambe mi vedono in modo diverso, sì. Mamma Carla è convinta che io sia un uomo in carriera, sì, che lavoro con il telefonino, che ho l'Apple, che uso le app, che ho la giacca e la cravatta, quindi ho la segretaria personale, ho il parcheggio privato in azienda, sono socio dell'azienda. Per mamma Carla l'azienda è mia. Mia moglie, la mattina quando mi sveglio, mi ricorda da che parte si svita la caffettiera, mi dice che piove, se piove. Poi mi dà un bacetto sulla fronte, mi mette 5 euro dentro il taschino e mi sussurra: coraggio. Mia moglie è convinta che io faccia le fotocopie per le segretarie, sì. Mamma Carla è convinta che io sono un gran Latin lover, sì, che trombi tutti i giorni con mia moglie, ma anche con le segretarie. Mia moglie mi vorrebbe trombare, ma vedendomi impegnato nello sport che faticosamente pratico, salto in lungo sul divano e zapping estremo, al sesso ci ha rinunciato, sì. E a me non rimane che YouPorn. Non resta una sola domanda: ma perché non mi sono sposato mia madre? Non è il mio tipo, no. Anche se mamma avrebbe una pensione molto alta, quindi un domani con la reversibilità, ma vabbè, lasciamo stare. Ovviamente io non sono come mi vede mia mamma e nemmeno come mi vede mia moglie. La verità sta nel mezzo. E incastrato in mezzo a queste due donne non resta una sola cosa: la fuga. Sì, ma dove? Dove andare? Biglietto di sola andata per un'isola deserta? Banale, no. Fuga nei social, creandomi il mio avatar perfetto? Già fatto. E mamma mi ha commentato in un video: voce! Cercando il luogo ideale, forse ho trovato quello giusto. La sala bingo. Sì, la sala bingo. Perché? Ma perché mi piace. Lì non c'è sta né mia madre né mia moglie. Perché sono solo, con i miei semplici pensieri. Perché a me la frase "oh, è uscito il 25" mi fa tanto Natale e mi piace. Perché sono circondato da persone che hanno le mie stesse esigenze. Riuscire a fare almeno un ambo a fine serata. Perché il confronto quotidiano con Egidio, il mio amico novantenne claudicante, è fortificante per il mio ego. E poi ovviamente Ho trovato finalmente chi mi ama per quello che sono, che mi ha convinto a lasciarmi moglie e che vuole pure risposarmi. La vedova Amalia Rossetti, 87 anni, pensione percepita 1800 euro al mese. E che vi devo dire? Mi sono sistemato. Mi chiamo Andrea, ho 42 anni e mia mamma e la mia seconda moglie vanno molto, molto d'accordo.